dice tu e tu chi sei con la bocca di foglia. La minchia, oh, e queste sono questi sono gli uomini che ce lo sbattono in faccia. Io le palle ce l'ho grosse e te le sbatto in faccia. Ti sbatto le palle te in faccia, chi viene preso, ricordati. A te che ti viene preso tutto cavolone, a cavolone ne sono rispettato dai piedi alla testa. Ah, tu dici che se vende... Dai. Ma tu dici che se vende per la camminata? Ma che ne devi fare tu? Che ne devi fare tu? No, che ne devi fare tu? Che ne devi fare tu? No, non è ti preoccupo tu, come per me con la sala, fino ad ora non ho provato. E poi dopo no, mi metti la mano nei capelli. No, piano piano quando provi il sale. A dice un paesano mio. Quando provate i noci di americani, vedete che va passa angurra. Tu dici? Ho finito. Ma tu vuoi i capelli ti comparano davanti o da retro? Guarda, non lo so, perché stanno cadendo, quindi non vale manco capire. Ah, ti stanno cadendo e te le puoi appiccicare nel naso, te le fai il baffo. Grazie del consiglio. Ma tu sai che sei una pecorella nera. E ti puoi solo vantare dietro uno spotted. Ma io non mi vanto. No, tu sei una persona che minacci dietro lo spotted. Io non l'ho mai minacciato. Perché davanti, scusa che te lo dico, quel morso di piscistocco che hai glielo apre il cane al porcio. Il piscistocco che hai glielo puoi aprire ai tuoi paesani di Cabellonia. Finite. No, è finito di dire minchiate, perché c'è da prima che sto sprecando la pazienza del tempo per uno come te, guarda, non voglio neanche la pena. Ma senza, troia il cielo e mezzo, ma che t'ombre a casa sera? Ma che t'ombre a casa sera, troia? Guarda, ti ha messo per nome puttana con la P maiuscola. Ma continua, sei, continua, vai. Ma per me sono padre, vai, vieni pure a fare il tuo paese che sono mento un cappuccio. Poi viene a fare il tuo paese che si mette un cappuccio qua, invece si mette un conservativo, si mette un conservativo per cappuccio. Ma poi dai, io lo dico. E diglielo.